Ben ritrovata Giulia Giorgi di Baburca Production. Grazie. Un nuovo appuntamento dal titolo Finanziamenti, Welcome to the Jungle, al Felt Music a Roma il 24 febbraio. Giulia, allora raccontaci un po'. Allora, siamo arrivati al nostro terzo incontro con il cartello degli indipendenti, che insomma è una realtà che si è spontaneamente organizzata dalla necessità delle nanoproduzioni, vogliamo chiamarle così, romane e dei dintorni. Innanzitutto il nostro primo problema è che come realtà, sia per quelle legalmente esistenti, sia per i gruppi informali, è che non tutti i bandi sono adatti a noi. In realtà i bandi di finanziamenti di progetti, insomma, cinematografici, nello specifico, in realtà sono già proposti per delle realtà che hanno delle grandi capacità economiche. Sì. E quindi per noi diventa necessario confrontarci con i nostri simili, perché le nostre società sono considerate fra le piccole e medie imprese, però le PMI sono fino a 250 dipendenti. Noi abbiamo operative o società che hanno zero dipendenti, perché siamo noi e ovviamente siamo dipendenti dei nostri stessi progetti quando ci sono i progetti. Quindi già abbiamo tutta una struttura societaria particolare. Al massimo i dipendenti possono essere le persone di segreteria, ma neanche chi ha la produzione e la gestione della produzione in sé. Quindi, detto questo, dopo il primo incontro che abbiamo fatto al marzo dell'anno scorso del cartello degli indipendenti e abbiamo censito le necessità, delle realtà simili alle nostre, abbiamo parlato nel nostro secondo incontro delle possibilità alternative di distribuzione e in questo terzo incontro parleremo, delle possibilità di bandistica e reperimento fondi in generale. E quindi i temi che andiamo a trattare sono come si prepara un bando, quindi proprio, le diverse tecniche, da, come presentare la documentazione, i registri linguistici da tenere, piuttosto che il materiale da presentare e anche graficamente come presentarlo, non solo a livello di contenuti, insieme a Graziella Bildesheim, che è una produttrice indipendente. Dopodiché andremo ad analizzare il contratto nazionale dei lavoratori cinea audiovisivi e la commissione paritetica, come possono essere gestiti. Dopodiché toccheremo invece il tema del crowdfunding, che spesso, insomma, ormai è tematica sulla bocca di tutti, ma che in Italia ancora non ha tutto questo grande successo. Ci sono però dei progetti di successo e quindi parleremo del caso di Choose Love insieme al regista Thomas Torelli e Elisabetta Badolisani, che si è occupata di social manager del progetto e di fare la consulenza per la gestione dei festival. Quindi proprio il punto del crowdfunding è importante perché anche io credo che a livello italiano possa essere più uno strumento promozionale a volte che uno strumento di raccolta fondi in sé. Quindi i nostri progetti indipendenti è importante che iniziamo a concepirli con una strategia, non solo come autocelebrazione artistica che a volte insomma così diventa, ma se facciamo insomma delle opere d'arte e nessuno le guarda, poi c'è poco da fare. Infine parleremo di equity, come si produce in compartecipazione con Rohan Johnson, speriamo, perché ancora ci deve confermare la propria presenza. Detto questo, chiuderemo per le 18 con un aperitivo tutti insieme, perché comunque la parte della socializzazione è sempre molto importante proprio a livello di network lavorativo, che è un po' quello che manca, insomma, se ognuno lavora per sé, alla fine in realtà non si va da nessuna parte. Sì. Giulia, ci parli anche un po' di Baburca Production? Sì, la Baburca Production è una cooperativa di produzione, noi adesso andiamo incontro al nostro terzo anno di vita e la particolarità della nostra produzione è essere una cooperativa di lavoratori, quindi noi non abbiamo un capitale da investire nei progetti, ma abbiamo noi stessi le nostre capacità. Quindi nel corso del tempo, partendo da una realtà di collettivo che è durata un paio di anni, abbiamo fatto un bando di startup aziendale e da lì siamo riusciti anche a costituirci legalmente. Con tanta fatica siamo siamo arrivati, insomma, alla nostra terzo anno di età societario. Per noi, insomma, siamo una società un po' anomala rispetto alla media. Abbiamo una gestione condivisa proprio della concezione aziendale, sia a livello decisionale, sia a livello di compiti. Quindi, insomma, un po' tutti devono essere in grado di occuparsi di social media piuttosto che di organizzazione, e noi crediamo molto nella condivisione. Ecco perché organizziamo ad esempio il cartello degli indipendenti piuttosto che Effectus Event, che è un evento dedicato agli effetti speciali di trucco, che adesso va verso la sua quarta edizione, perché tra i vari reparti che abbiamo all'interno della produzione, che vanno dalla scrittura fino alla post-produzione, composizione musicale, ci sono i laboratori che sono molto forti, in particolare quello di effetti speciali. Tanto che infatti quest'estate, insieme a Luna Gaulano, abbiamo coprodotto un film che si chiama Go Home, di cui poi abbiamo parlato anche insieme, e, con la parte proprio degli effetti speciali, perché essendo un film a basso budget, in cui però noi credevamo fortemente, abbiamo deciso di entrare in compartecipazione. Giulia, considerato che è il terzo incontro, quante altre strutture oltre a voi siete riusciti a coinvolgere? Allora, le realtà partecipanti sono circa 25, più tutte le persone che, insomma, che liberamente partecipano. Mediamente l'ultimo incontro ci sono state, insomma, un 120 presenze, e quindi, insomma, siamo molto contenti per essere un incontro di nicchia. Sì. E in chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora, le informazioni si possono trovare sia sul nostro sito www.baburka.com e sulla nostra pagina Facebook omonima, Baburka Production, in cui troverete anche l'evento del cartello degli indipendenti, che si chiama Finanziamenti Welcome to the Jungle, in cui fra l'altro ogni giorno stiamo mettendo delle ulteriori informazioni. Bene, era un po' di suspense. Ricordiamo l'appuntamento al Felt Music a Roma il 24 febbraio. Un saluto a Giulia Giorgi di Baburka Production e a presto. Grazie.